Serbia, questa è la mia, questa tu immaginati, io l'ho comprata nuova, l'ho tenuta un bel po' di anni, l'ho venduta a Roberto Quadrato e Roberto Quadrato ce ne ha comprato un'altra e questa è tornata a me, ok? Quando è tornata a me, anzi prima di dare a me, Roberto Quadrato l'ha data a Fabrizio, l'ha tutta revisionata ed è questa, quindi capito Lu, questa è revisionata da Fabrizio. 2 anni fa, non ti dico altro, perciò vedi te, fai te camomilla, ed è la mia, è l'unica sassari con la scheda fonim, questa mi. 1-7-0-7-5-0-0. Senti? Aspetta che ho un errore qua. 1-7-0-7-5. Ah, cane morto, non l'avevi detto, ero convinto che l'unica era la mia, anche la tua c'è la scheda fonim. Va bene, allora siamo in due, vabbè, no, perché era una truffa, cioè 120 euro costava quella scheda fonemi, capito? Poi io, vabbè, stava a bongo, io c'ho tutti i filtri, c'ho tutti i filtri, AM, CW, FM, SSB, tutti ce li ha, ne ha 4 filtri, già puoi chiedere a Fabrizio perché l'ha revisionato a lui, c'ha tutti i filtri, vabbè, avanti, doppio room. Già va bene quella che c'è tu che fa alla grande. Luca, faccio un pensierino. Ma Luca o Gianni già lo sa come ci parliamo noi. Per Luca non c'è nessun problema. Può venire a prendersi anche adesso, guarda, non ne ho problemi. Quando c'è soldi me la paga. Dimmi Roberto. La scheda fonemi, c'era anche il 711 se ti ricordi. Sì, quello che ti ho dato io, esatto. 7S711 c'era la scheda fonemi. Eia. Sì. L'avevo comprata così io quella, con la scheda fonemi, da un radiomatore di Porto Torres, capito? Un radiomatore di Porto Torres, sì. E quella è. Se trovi l'811 lì fai una coppia eccezionale, vanno benissimo quelle radio. Non so se capita un'occasione. Ok, vediamo un pochettino. Riccardino, ci siamo come? Sì, ci sono, positivo, sono intanto qui in ascolto. Comunque ci sono sempre. Ok, bella la radio, mi piace la radio di Riccardino, aspetta quando rifà quella operazione Fabrizio con l'MCP, l'MB più 5, Riccardino ce l'hai alla grande. Ok, vai Claudio Ramuros, ho trovato quella pennina di cui abbiamo parlato, Claudio, l'altro giorno, c'ho i cavi adattatori per trasformarlo in coso, per portarlo a diventare, come si chiama, a inserire il PL e tutto, pronto a funzionare. Sì, ringrazio in anticipo, dai. Ok, ero da un po' che la volevo fare quell'operazione, finalmente ho trovato uno che lo sa fare. Ok, e vediamo Massimiliano Bundone, non sapevo che eri raccoglitore seriale tu, Massimiliano. Ah no? Tanto ti posso andare in quel programma di Max, non lo guardi mai quando ci sono raccoglitori seriali. Non sei Massimiliano, quando stavo facendo lavori a casa, non mi ha fatto dei lavori, eccetera. Mi ha telefonato, mi ha detto scendi a casa che ho iniziato i lavori, ti devo dare un po' di roba per togliere la mesa ai piedi. Sono sceso da 600, ho dovuto abbassare i sedili, ho caricato tutte le scatole di cartone, era tutta piena di radio e di microfoni, tutta piena. No, mangiamo Massimiliano, sinceramente sono stato un po' stupito, in positivo naturalmente, ho visto c'è un sacco di roba, belle cose, dai, sono cose belline, dai. È sempre un piacere vedere tutti questi apparati, non mi immaginavo, io pensavo ci avessi un paio, 2 o 3 baracchini e buh, invece cacchio. La malattia di coso di Walter sta contagiando un po' di gente, altro che coronavirus. Guarda, Walter ha iniziato, sì, diciamo che gli è venuta quella passione lì, comprare il vintage, ma io prima di costruire il bunker Walter ne avevo 2 scrivanie piene, già lo sai, ne ho dato un po' a te, ne ho dato un po' a Capri, ne ho venduto, ne ho regalato, ne avevo un mare. Adesso mi è venuta nuovamente la passione e sto riniziando da capo. Sì, ma tanto lo sai cos'è, Robè, non è ripromettere tutti in giro, dai, il modulo è sempre quei 2 o 3 e basta, cave, cosa fai? Sì, lo so, ma io ero così per le radio d'epoca, le radio, parliamo con le radio ricevitori, dai, quelli in legno, a casetta, radio buona, 50, alla fine gli ho detto, ma dove me ne ha tenuto qualcuno qua a casa, adesso c'è un locale e li ho messi da parte, ma sono dei bei pizzi veramente importanti di lì, solo che ci vuole un sacco di spazio. Qua a casa mi ha tenuto un 4-5 ne ho di quelle più prestigiose, poi c'ho quei mobiloni grandi, mi ha visto Claudio quello grosso. Ma teniamo sull'antenna sabato. Ehi, se ti viene tempo, ci fa tanto 10 minuti, è già dentro mi fa, bisogna tirarlo un pezzettino, mi metto, già c'ho la scala forbice quella grande. No, che vengo, roba, intanto tu verso le 10 e mezza chiudi. Io mi sistemo il cane verso le 9 e poi vengo da te. Così poi puliamo quella scrivania e me la porto via. E allora la carica, ma aspetta però, cacchio Claudio. Fiorino, bisogna fare un'operazione prima, bisogna farla quella lì. Ma perché? Mica ci sta anche nella multipla, ma stai scherzando? La multipla ci sta, ma ci sei dietro sta nella multipla, robè. No, non ne voglio cavare, c'è un bel roba dietro, lascia stare. La multipla è un attimo tu devi sedili, ma non voglio fare. Guarda, se tu domani non stai facendo niente, vai lo facciamo all'ora di pranzo, dopo pranzo, verso le 3, non so, quell'ora lì, lo carichiamo nel Fiorino e te lo porto direttamente domani. Perché Danilo sabato mattina non c'è, è ai punti, deve fare roba, ed è col Fiorino, proprio deve uscire col Fiorino, col doblo, dai. Vabbè, domani mattina ci mettiamo d'accordo, dai, mi va benissimo, dopo pranzo, appena apri, vengo, la puliamo, la mettiamo nel Fiorino e la metti nel portone e te ne vai, poi me la porto su io e me la sistemo io, ok, dai. E sabato mattina mi avvicino, dopo che porto il cane tiriamo su l'antenna. Non c'è problema, ok. Cosa volevo dire? Altro non viene, poi vabbè, ci vuole spazio, qualcuno, dillo, spazi la voce, quelle scrivanie, quelle grandi però, se ne vuole qualcuno così mi libera un po' di spazio. Io Massimiliano, bisogna prendere due misure, Massimiliano. Ti prendo due misure e a vedere se ci sta, invece di fartela, c'ha una, ce ne ha due, una delle due, vabbè, non ti mobiliare tutte e due, una delle due ci sta benissimo dove devi fare quel lavoro, bella, bella grande, larga, da 90, ci sta tutto quello che devi mettere, e in quel piano lì direttamente già pronto, perché c'è anche i cassetti dove ti puoi mettere tutti i PL, i microfoni eccetera, tutto ordinato come c'ho io, puoi farti solo una sopraelevata, capito? Ma cos'hai, la miela c'ha gotto? No, in legno, una scrivania in legno con i cassetti. E quanto è grande, Roberto? Guarda, la struttura è in ferro, cioè la, dove tiene la base là è in coso, è in ferro. Il piano io penso sarà, aspetta, sto confrontando la questa, fai che c'ha 1,20 m, 1,50 m, più o meno per 80, 90, una cosa del genere sarà. Però ci puoi mettere, cioè il vetro da mettere sopra, se lo vuoi, o se no, senza vetro è meglio. E ti metti i piani come ho fatto io, l'hai visto? Vai da Bricco, ma ti prendi le basi, ci sono tutte le misure, oppure te le fai tagliare come vuoi tu, e ti metti i piedi quelli a vitare sotto, e ti puoi mettere tutto le radio come ho fatto io, l'hai visto quando è uscito Mellino la roba mia? Ho visto. Poi c'hai i cassetti, c'è anche una cosa di valore, non è una gaggata, nel senso il valore, nel senso non vale nulla, però non è trucciolare, è legno buono, e ci avrà 50 anni, forse anche di più con la scrivania. No, è bella, è che a me mi prende troppo spazio, ho capito, altrimenti me l'avrei presa io quella lì. Sono indeciso, non lo so, sono indeciso veramente, però mi serve quello là per il computer a me, capito? Comunque Massimiliano, ti faccio la foto quando la vado lì e te la mando, se ci sta, cazzo, prendila, perché c'hai i cassetti, capito? Beh, una verniciata ai piedi, che sono in ferro come i miei, che sono più robusti. E il resto è tutto, la base è tutta in legno, con le cassettiere è tutta in legno, però sopra puoi mettere anche il vetro, lui c'è anche il vetro che è molto elegante, capito? Però se non vuoi mettere il vetro lasci solo il legno e ti fai solo il ripiano. E quando si rimanda me una foto, là. Tanto io domani non lavoro lo stesso, quindi quanto? Ah, 1,50 m mi hai detto, per 80? 90 è. Più o meno così, ma non è anche più piccola, tanto non me ne posso nulla, le tiro via da mezzo ai piedi, così faccio pulizia. Non me larga 90, grazie. No, ma com'è questa è quanto? 80 l'hanno fatta la base. No, da 80, 80 l'ho Massimiliano, 80. E vabbè, mandami la foto, dai, se in caso è, se mi piace, cosa vengo, me la prendo, non problema. A cui li puoi dare anche una tinteggiata, a me, se ti non ti perdi il colore, li dà una tinteggiata, te la fa il colore che vuoi tu. Sì, tranquillo, dai, vediamo, per quello non ho un problema. Andiamo a arrangio anche a fare qualcosa, a rivestire anche i piedi in ferro con legno. No, guardi, lasciali così come la struttura mia, hai visto la base che ho fatto io, sono lente, le vernici neri sono belle, ti sto dicendo meglio lasci in ferro, cosa fa lo legno, è una gaggata, lasciala così e la base è in legno, non so che legno sia, non è trucciolato, è roba grossa. Va bene, ok. I legni in ferro nero li fai Massimiliano, io mai visto ce l'ho, sotto solo il ferro cromato e invece sopra la base è quella che mi ha fatto in noce Massello Giulio, i piedi sono in ferro perché così non piegano, non fanno, ci sta un sacco di peso, capito? È perfetto, comunque ti faccio la foto e poi te la mando, vai avanti doppio rum. Sì, aspetta, mi squilla doppio rum, non c'è più, vai che devo andare a portare giù il cane fra poco, dai ci sentiamo, buona serata e buona continuazione in queste ore. Ciao già, ben sentito Mario, a dopo se ci sei, avanti Claudio, poi Massimiliano e Riccardo. Claudio chi, di Muros? Uno dei due, dai, tanto ci siete tutti. Vai Muros. Non mettere altri baracchini e lascia questo che c'hai quasi 10 watt modulati e sei 9 più 15 perché con gli altri mi arrivi basso, capito? Questo l'avevo 48 gli ho dato io. Ho stato benissimo. Sì, ciao Gianni, ci sentiamo nel prossimo, dai, cordialità e saluti, buon fine serata. Sì, lascia quello perché c'ha 8 watt di portante, 10 modulati e ti aiuta un pochino quella radio. A parte il fatto che esci benissimo, è l'unica radio che esci bene. Ok, con l'MB più 4, lascia quella, te l'ho data per usarla, non per tenerla dentro l'armadio e usare baracchini che ci hanno private, quella va bene, va benissimo alla grande. Avanti Riccardino. Ok, saluto a Gianni e alle prossime o a più tardi. Comunque stavo ascoltando il stato della scrivania, anche io me ne devo prendere una, ne stavo cercando su internet perché come avete detto voi mi devo fare la postazione dentro. Riccardi, viene tuo padre, una Massimiliano se la vuole, che è già promessa, l'altra più piccola se la vuoi, tanto non me ne posso nulla. Picca, vai con il pick up, la caricata e te la porti via, è bellissima quella che c'ha Roberto, perché devi comprarla? E ti fai ripiare Riccardi, l'hai vista com'è la mia stazione, te l'ho fatta vedere, è uguale, semplicemente, e ti metti i ripiani la bricco, ma ti metti le basi, i piedi, ci sono di tutto le misure, ci infili tutto quello che vuoi, puoi fare 10 piani se ne vuoi. Ah ok, va bene, glielo dico a babbo un giorno quando passa che deve ritirare anche altre cose, e così così la vede questa scrivania. Sì, già va bene, dai, per fare qualcosina, dai. Io non ne ho bisogno qua, ne ho tolto una mezza ai piedi. Adesso forse ne salgo una piccolina, che quella è un bel pezzo, è molto vecchia, tutta in metallo, con tutti i cassetti in metallo, struttura in metallo, è una cosa, ma certo me l'hanno chiesta negozi che vendono roba d'antiquariato, dammela, l'altra, quella grande non l'ha voluta nessuno che era troppo grande, alla fine l'ho regalata uno a Ferro Vecchio, sono le vecchie che facevano la Olivetti, che facevano della linea Olivetti, che usavano le banche e cose del genere, e me ne è rimasta una piccolina, però mi sa che la metto qua vicino per il computer. Ok, come detto glielo dico, perché come ha detto Claudio mi devo fare, Massimiliano, mi devo fare la postazione dentro, perché anche d'inverno che c'è troppo freddo non posso stare fuori ed è meglio dentro. Ma in casa per il... Sì, dentro casa, anche vicino al letto mi metto, ho un posto per mettere una scrivania e me la volevo mettere lì. Sì, assolutamente, e poi ti lascia anche con la postazione di vari, fai due passaggi di cavi, ti fai un modo che non modifichi niente, vai, quando c'è caldo te ne vai in quella specie di localino che c'è tu e la notte te la metti vicino alla cameretta tua o nella cameretta tua. No, vengo io Riccardo, te la faccio io la stazione lì, te l'organizzo io, sai come viene bella. Immagino, adesso va bene Claudio, che così la voglio fare ancora più bella, che qui è un po' così e spero che vada, che sia più bella dentro casa. Dentro casa è bella, una bella scrivania. Ti andiamo a prendere il materiale, ti faccio il ripiano come c'ho io, capito? Sotto tutto bello organizzato con i vintage, in alto tutte le altre cose, gli strumenti, i microfoni, io ce l'ho così come ce l'ha Roberto, così vogliono fatte, non si mettono le radio una sopra l'altra, capito? A me me l'ha fatto tutto Giulio, perché Giulio era falegname, Mastro Lascia, Mastro Giulio Dollaro, capito? Io gli ho dato la stanza vuota e lui mi ha fatto tutto quello che mi serviva. Ho capito, sì, penso che venga bene comunque. E va bene, cambio che per Claudio di Muros, che è anche un po' in parcheggio, se c'è ancora. Lo so, io quando ho cambiato casa l'ho fatto proprio per quello, perché ero sempre qua, per ora non ho piano ed avevo una stanza in meno. Quando sono morti i miei suoceri sono sceso qua, capito? L'altra l'abbiamo venduta. E quindi sono sceso qua. C'ho tre stanze, siccome noi siamo in tre, quindi a mia moglie abbiamo la camera da letto, mia figlia c'è la sua camera da letto e questa stanza, che non è piccola, l'ho adibita solo esclusivamente a sala radio. Non c'è altro che radio qua, radio, televisore, computer, questo è il mio ufficio. Il mio ufficio da combattimento. L'ho visto, è molto bella la tua stazione comunque in posto. E a quanto ho capito, da tutte le cose che c'hai, anche tu, Claudio di Muros, devi avere delle belle radio. Sì, beh, ne avevo tante, ne ho dato un bel botto, padre, almeno 6 o 7 ne ho dato. 6 o 7, anche a Roberto ne ho dato un bel po', anche cose belline. Ma prima lì ce ne mancano, perché c'era la linea Drake, c'era la linea Univem, ce n'erano di belle radio. Poi alla fine mi sono stufato, capito, anche perché era un lavoro spostarle, ogni tanto le dovevo spostare, spolverare, pulire, e quindi mi sono stufato. Adesso sono organizzato bene, però mi è venuta nuovamente questa mania delle radio vintage, quindi per forza devo rimettere l'altra base, siccome mi serve anche un portacomputer. Roberto ne ha uno e quindi mi faccio avere quello, il computer lo metto da una parte e tutte le altre radio le sposto. E questa parte qua la lascio solo amatoriale, HFVEU, e basta. Capa, sì, anche io volevo organizzarla così, perché praticamente qui in garage c'è un bel di roba, attrezzi, roba della macchina, roba per sabbiare, e quindi è un po' un disastro, dicendo così, è tutto mischiato, e quindi mi volevo mettere proprio in basso i vintage, su un ripiano, i Kenwood in basso, poi i vintage su e le altre cose, me le sistemo bene. Così vuole fatto, un commutatore d'antenna buono, che ti commuti l'antenna sulle radio che vuoi usare, capito? Tutto alimentate, come c'ho io, va bene, un bellissimo lavoro, va bene. Che ci è rimasto oltre a... quindi Massimiliano ci sia ancora, sì. Dove è andato Massimiliano? Sono pure io, là, caso qua, io ho già mangiato. Ho mangiato la frutta, un po' di pasta, così veloce, non ho un po' con voglia, sono qua. Se ci siete dopo, se no... Cazzo, meno è domenica, domani si lavora. Domani mattina, vabbè, io mi ha soppresso, passo sempre tutta la mattina da Roberto a trovarlo, 8:30, così 8:15, poi rientro a casa, sistemo il cane, poi me ne vado in ufficio a vedere se ci sono cose da fare, e se no me ne rientro a casa. Adesso una mattina, ad esempio, devo andare per forza, perché sicuramente sono arrivati i fax, c'è da spedire, da fare, controllare. Ok, va bene, no, io dopo cena, a meno che non sia a fine settimana, ma dopo cena mi guardo un po' di TV e poi basta, poi spengo tutto, se vuoi tutto in radio, loro mi è peccato, vabbè. Sì, io già lo so. Ok, ma Massimiliano, è andato via o c'è ancora? Ho ripreso adesso dal telefono, l'ho detto, no, un attimo che mi squilla, ho detto. Ah, scusa, non l'ho sentito, dai. Ok, avanti Claudio, la Muros, il tuo babbo dove è Claudio? Fatemi salutare a Claudio, capo, a Claudio di Muros. Claudio, buonasera. Sì. Anche tu, segnale 7 Radio 5, ti ascolto benissimo, ora non ci stanno problemi. Sei entrato un paio d'ore fa, era un casotto, perché c'era un casino tra la Madonna nel canale, in tutti i canali, avanti, ripeto. Sì. Andare, dai, avanti, Roba, riprendi tu, fai girare per Massimiliano, poi per Gianni, Claudio, riprendi tu, Roba. Che Maria, ma tu mi hai visto quella foto? No, no, non ci ho fatto caso perché era al telefono, aspetta, guarda. Eia, ok, e cosa volevo dire? Che è rimasto qua? Poi c'era prima Antonio Riserva nell'altro canale, gli ho detto passa qua, non so se si abbia risposto o che cosa. Natalino poi c'era, aspetta un attimo, Natalino c'è ancora, però ci dimentichiamo dalle persone molte volte, mi dispiace, e poi ti ricordi che c'era lui e non è bello così, soprattutto quando sono segnali più bassi che li schiacciamo completamente. Vediamo, lasciamo un secondino di bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, se no riprenditi il mic tu Claudio, torre di controllo. Ecco da queste parti, Gavino, ciao, ciao Roberto e Claudio, adesso non so chi c'è, anche Massimiliano, buonasera a tutti. Ciao Gavi, ben sentito, vai Claudio. Ciao Gavi, buonasera, sì, sono io, Claudio Lamuros, Roberto, Luca, Massimiliano e Riccardino, poi non so se c'è qualche donato perché io sono rientrato da poco, ero a portare il cane, quindi non lo so. E cosa stavo dicendo? Non me la metto più, vabbè, ok, non mi ricordo, te lo dico. Avanti Massimiliano per Gavino. Ciao Gavino, buonasera, ben entrato. No, voglio rispondere a Roberto, sì, ho visto la foto, ma non mi piace questa cosa così tutto incasciato. Va bene, ok, vai Ricca. Ok, saluto a Gavino, ciao Gavino, ben ascoltato. Cambio per Muro che saluterà Gavino. Ciao Gavino, saluto, avanti, riprendi. Ciao, ciao Luca, ciao, ciao Riccardo. Passo la parola a Massimiliano. Gianni Sanchez, già ne ho più rumore, è vero già, ci sei? No, è andato a portare il caso. Oh Roberto, come potrei trovare il programma per fare le diagnosi alle auto? Non ho capito, il programma? Per fare le diagnosi alle auto. Cacchio, non è così semplice Luca, se vuoi fare cose leggere già si può fare, ma sei molto limitato. Vabbè, a pagamento, non so. Guarda, non chiedo a mio nipote, perché è lui che le fa tutte queste cose in officina, vabbè, loro hanno altre cose, sono con la Texas, sono collegati di qualunque cosa, però lui ci aveva un programmino, già ti mette in condizione di lavorare, la scrive, ti prende la presa OBD, ce l'ha. Sì, c'è tutto, solo il programma serve, siccome è un PC, no? Lo formata, poi sapere quanto vuole. Ah, no, vabbè, già non ti preoccupare di quello, poi già ne parliamo, adesso domani chiedo qualche informazione che lui è molto più approfondito di me, se ne occupa lui di tutte queste cose, è un ragazzino però è molto sveglio, dai, su queste cose è molto molto bravo, a parte vabbè che ha fatto tutti i corsi. Cosa volevo dire? Stavo dicendo qualcosa? Ah, Riccardi, sta iniziando a ronzare con la radio, non la radio, l'alimentatore, dopo un'oretta che lo tiene acceso, qualche ora che lo tiene acceso inizia a perdere colpi, me ne sono accorto anche l'altro giorno, meno male Massimiliano, Fabrizio ti busca con l'alimentatore perché non è possibile che dopo un po' che scaldi va, si siede con l'alimentatore. Lo so, ma anche adesso lo sta facendo. Sì, poco ma lo fa, me ne sono accorto, inizia a scaldare con l'alimentatore, ma io voglio capire una cosa, ma la ventola parte o no di quell'alimentatore? No, la ventola è proprio dietro, è dell'alimentatore. Ma è spenta o è accesa? No, come aumenti la potenza, la ventola funziona. In questo momento sta funzionando? Positivo. Ah, ok, no, perché se no lo bruci, perché se magari non si inseriva il termostato e magari ripartiva, cioè non ti inserisce la ventola, c'è il rischio che lo bruci con l'alimentatore, ma è strano che scaldi, sono vabbè forse un po' economici come costruzione. Ok, signori, io vi lascio un pochettino, ci sentiamo tra poco, dai, vado a mangiarmi qualcosa, ciao Riccardino, ciao Massimiliano, ciao Claudio Lamuro, su Claudio Torre di Controllo, ciao Luca e Gavino, penso di aver salutato tutti, ci sentiamo tra un po', ciao ciao. Ciao Roberto, a più tardi. Io voglio capire una cosa, ciao Roberto, metti la portante Ricca, perché a me non mi sembra alternato, a me mi sembra il rumore del vento, metti la portante. No, rumore di alternato, ha ragione Roberto. Strano però, strano, molto strano. Avanti Massimiliano a girare per i saluti di Roberto. Ciao Roberto, ci sentiamo dopo. Buona carichetta, buon tutto, vai Gavi. Ciao ciao Roberto, alle prossimine. Vai. Ciao Roberto, fammi sapere, dai, nel caso. Andare, ciao. Allora, prendo io e si conferma, va bene. E no, Claudio Lamuro, stiamo donando con la RAN 48 che gli ho dato io. Ciao, 8 watt e 10 modulati. Esce molto molto meglio delle radio che c'ha, quelle vecchie, capito? L'MB più 4. Perché con quelle che usa lui da 3 watt mi arriva a Santiago 9, qua sarebbero 9 più 10. Va benissimo, la radio è pulita e ordinata. Confermo, però se riusciva tutto così. Va bene, proprio bene, bene, avanti qua. Questa devi lasciare qua, perché è la migliore che hai. Senza offesa, gli altri vanno bene, ma non escono come questa. Questa c'ha più watt e la radio è bella e va bene. Sì, comprensibilissimo al 100%. Vai Massimiliano. Allora, io, vabbè, io lo sento un po' bassino, quindi... Allora si porta dietro tutta la propagazione, capito? Quindi non riesco a sentire quello che sta dicendo. Sì, ma lui aveva alimentato la 24 però. Vabbè, ha alimentato la 24 Massimiliano, lo so. Ma lì a quella LAN 48 che io l'ho usato, puoi abbinarci un bel 747. Costa, guarda, io l'ho già dato, perché me l'hanno dato e l'ho venduto, capito? 40 euro. Però sto dicendo, se trovi un 747 della CTM, pare che sia, funzionano benissimo, lo abbini dietro, lo lasci stare, quando ti serve lo attacchi e ti dà sempre quei 60-70 watt, non satura la modulazione perché quella radio è collaudata e tu sei a posto. E incrementi di segnale, capito? Perché avendo l'antenna così bassa, 10 watt non bastano per la zona di Massimiliano, ce ne vuole almeno 50, 40, 50 per farti sentire bene, capito? Tutto qua. Avanti, Gavrini. Eia, eia. Così arriva Santiago 9, Radio 5. Buono comunque, dai. E dunque vi siete divertiti stamattina con la propagazione, Claudio? Sì, Gugnano si è fatta poco, guarda, dico, aiuti radio, era una cosa allucinante, 9.30, boom boom boom boom boom boom, avevamo già la praia, no, noi ci abbiamo fatto perché eravamo su 10 e tutti entravano, centro, nord, sud Italia, e stavamo chiacchierando così a livello locale, capito? Quindi abbiamo fatto un po' di man bassa, io, Giulio, Luca, Riccardino, c'era, insomma abbiamo fatto due chiacchiere, mamma Massimiliano si è andato su 45 a fare un po' da brutto. Avanti Riccardino. Sì, va bene, anch'io vado un attimo a mangiare qualcosina, che così poi non devo rimanere un'ora mangiando, e ci sentiamo più tardi. Sì, sono le 9:20, dai, mi sa che anch'io mi allontano, vi saluto, vado a mangiare qualche cosetta, semmai dopo se ci siete facciamo altre due chiacchiere, intanto mi sa che Massimiliano domani è libero, quindi magari dopo cena, se non c'è niente alla TV ci facciamo due chiacchiere Massimiliano, anche tu Gavi, senza trattenerci tanto però, ok, quindi per il momento vi saluto, Claudio Di Muros, Massimiliano, Gavino, Riccardino, Luca, Roberto che è già andato via e chiunque fosse in ascolto. Il cambio per te Massimiliano, ci sentiamo dopo, ok? Allora ci sentiamo, ciao Riccardo, buona carica, ciao anche a te Claudio, ci sentiamo più tardi se coincido, va. Riprendi Lugaria. Ciao Riccardo, ciao Claudio, là. Ci sentiamo domani, tanto sicuramente non rientrate, io adesso sto un po' qua, là. Sono qua, poi verso le 9:30 facciamo appunto la vecchietta. Comunque ciao a tutti, sì che già entro dopo, mangio solo una cosa al volo ed è ritorno subito. Sì, avanti Gabriele. Sì. Eia. Ciao Claudio, ciao Claudio Ramuros e Riccardino. Alle prossime. Ciao Claudio, buona carica e buon tutto, la saluta a Babbo, la alla prossima, ciao. Ciao ciao, avanti, ciucucciu. Avanti, avanti Massimiliano. Ciao Claudio, comunque un consiglio che ti do, prenditi un BV507 e attacchi a 220 e sei a posto, 300 watt in AM, già va bene. Ok, ciao, buona carichetta, salutoni al cuore della familiare, ci sentiamo nei prossimi, dai, avanti Pomponia. Buona serata a tutti, i scucciti, quelli che sono rimasti, quelli che stanno andando a mangiare, buona cera. Capito, BC 407, cercalo da ce n'è qualcheduno a 200, a 106, 80 euro, cercalo. Chiama Galare. E quindi, com'è? Ciao Antonio, ben ascoltato. Chi è Antonio? Un pugno. E Antonio non lo dire. Quando il ragazzo in faccetta, ragazzi, un borsettino andando a fare... Ai. Un pugno, dove sei? Vabbè, ciucucciù, e la musina andava a fare ciucucciù. La scena, E fui testa, cazzo, ce ne no. Ui, mamma mia, come sto, cazzo. Abbiamo tutto aggiornato col televisore, capi? E beh, come va? Ce ne è bene? Se non siamo più preso a scarto non esiste, solo cavo HDMI. Sì, non esistono, no, preso a scarto ormai non c'è più. Prima davano una modifica, ma adesso è tutto HDMI e USB. Facciamo un telecomandino, ragazzi, invisibile, fasi tutto, sposti i pomelli in basso, in alto, guarda, bella, veramente. C'è una definizione allucinante. Avanti, Lu. Sei matto? Ehi, Daniela, mia moglie ce l'ha tutto aggiornato, là. Devi fare un account, ti devi scaricare una cosa per configurarla. Bella, una bella televisione. No, è mia figlia. Ma c'è non accendeva? Ma che cosa? Tu stavanti a mezzo la gabbia può tenere una TV che non accende. No, quella lì era... Allora, quella lì la vuoi prendere a colpi, furti. Si vedeva l'immagine a metà, capito? Accendeva, cioè accendere, sì, già si vede pure. Però per vedersi l'immagine bene dovevi darle a colpi di fucile. Ah, quando è così, ma per carità, mamma mia, no. Guarda, io ho venduto Massimiliano quello a tubo cattolico, avevo pagato allora 200, un 26 pollici in Marisia, quello con l'espansione dietro. Ho pagato 230 euro mi sa, se non mi ricordo. Ma lo sono venduto, per una signora anziana con decoder, 30 euro. Ma non ha mai dato problema, mai, era perfetto. Ma guarda che anche questa è bella, è peccato che si ferma questa immagine perché come definizione è bella, capito? Va bene, è grande come televisione, c'ha dei bei colori, è bella, solo che se ricordi un colpo si riprende, vai a sederti a mangiare, stai guardando la televisione e torna a metà la cosa. E vabbè, quindi mi ho portato quella che c'avevo su, là, che c'era in camera di mia figlia, me l'ho portata giù in cucina. E a mia figlia gli è arrivato il televisore nuovo oggi, 50 pollici. Ho capito. No, così io lo comprerei anche un 50 pollici, un 49. Ma non volevo su nulla, cosa? Non me ne faccio proprio. C'ho un 32 che non avevo trovato. Cioè, mamma mi sono fatto il mio cugino dal call centro. Ed è perfetto, funziona benissimo. Oh Gabi, a proposito di televisione, adesso domani se ce la faccio, domani no. Venerdì lo apro e ti mando la sigla del pannello. Ehi. Ma tutti quanti stanno prendendo 50 pollici, 60 pollici. Dove se lo metteranno? A parete forse. Allora, il discorso dei 50 pollici, sai cos'è? Ti si pacca un LED, è un casino smontarlo, Cioè, levare il pannello è un casino. E sai cos'è che adesso sono 50 pollici, sono leggeri. Però quando ti si fa c'è sempre un problema, capito? E la niente ancora non ha compreso. Io mi chiedo un 40, che è più manovrabile, tu ce la puoi maneggiare, maneggiare. E lo puoi riparare, erano 50 pollici, 60 pollici, 75, ma cosa li fai? Sono belli, sì, perché vedi l'immagine grande, ma quando lo porti a riparare è un casino, lascia perdere. Ma io non lo comprerei così grande, al massimo un 40, là, 40 ci sta. Ehi, allora se mi ha trovato l'occasione, mi ha pagato tanto, e già va bene, un Samsung. Capito Massimiliano, il problema è quello. E mio fratello lo stesso, gli si era rotto, ma se non mi ricordo, c'era lui un 55 tra LG, proprio che culo cazzo, quasi per scadere la garanzia. Se non mi sbaglio, mi sa che era già scaduta, vabbè, comunque la sarà bruciato un LED, poi ho avuto cambiare tutta la striscia al tecnico. Un casino, sono un tecnico che ha gli attrezzi adatti, può fare questo tipo di lavoro, capito? Avanti Massimiliano. Ma non so neanche se sia a LED questo, vabbè, boh, a LED era. Questo qua, no, quello che ho tirato io era a neon. A neon, neon, infatti scaldava. Scaldava molto, scalda. No, questo che ha preso Gaia. Vabbè, tutti a LED sono oramai. Oramai li fanno a LED, capito? Lucarie, lei l'ha scelto così e se l'ha preso. Guarda, l'abbiamo pagato, costava, a prezzo più mi sembra costava intorno alle 700 euro, abbiamo pagato neanche la metà. Comunque, sono venduto il Panasonic, quello al plasma, che adesso consuma un po' di correnti, e poi c'è ancora la mamma, appena, adesso vediamo, appena ho due soldi in più, glielo faccio cambiare. Io su me non curavo gomme perché consumo un po' di corrente, mica sono in due, vabbè ci sono pure io, ma ora ne consumo poco, però sono andate in bolletta da 350 euro in due, cioè ma te ne ricordo. Però io riferisco dei ritrattori, quei televisori vanno bene, si vedono molto bene rispetto ad altri, anche nuovi, capito? Vabbè, comunque io non ho nuovo, ho cambiato la scheda dell'alimentazione, ma veramente nuovo, nuovo. Infatti la tipa quando ho dovuto prenderlo, insomma, anche la sua, che gliel'ho fatto vedere come funzionava e tutto, era un po' lì, diceva non ci sta qua, perché siccome lì c'aveva un 37 pollici ha preso, no? Il mio essendo un 42, il braccio non andava bene perché era più stretto. In più ero logista quella, ero lì, siamo si abbiglia ghita, diceva la dovevo riportare a casa. E poi alla fine si decisiamo andati i soldi e gli ho sistemato anche la sua, quella 37 e poi darò alla figlia. Quindi adesso vado a preparare da mangiare, dai. Tutto a più ci sentiamo dopo, dai, se riesco. Un saluto a tutti, anche Massimiliano e chi ci ascolta, dai. Dunque ci sentiamo un altro momento, dai. Ciao ciao, a dopo. Ciao ciao Gavi, ci sentiamo, là. Ci sentiamo dopo se coincide, se no a domani, là. Ho sentito Eugenio gridando, vai Luca via. Ehi, avanti Eugenio, ciao Gavi, buonasera con tutto, là. A più tardi, sono alla prossima, avanti Eugenio. Ciao G, vai piscia un gaibone, vai. Ho detto vai piscia un gaibone. Già ti ho sentito che stavi cantando, la squarciagola. Dove sei oggi? Ah, è finito adesso? Bella, è finito adesso. Andavo a Voglia. Ma io veloce, rientra a casa, fate una bella doccia e da voi piscia e coccati. Cavolo, dai, avanti Lucaria. Allora, vediamo un po' se mi ha rimborsato con sto qua della macchinetta. Non si è fatto più sentire, anche se l'ho già spedita. Diciamo che... Ma ho capito una cosa, Massimiliano. Allora, cioè, il codice che mi ha dato il Bartolini, no? Però è a 14. E nel sito per tracciare il coso, la... Cioè per seguire il papo dove è arrivato, non c'è a 14 numeri. Cosa vuol dire non c'è? Per forza c'è. Allora ci hanno dimenticato qualche numero. Sono il trovando, no, c'è proprio il tagliandino Massimiliano, quello adesivo. Ma tu dove entri per rintracciare il pacco? Su Bartolini o sulle poste? Su Bartolini. E non te lo va? Sei molto Bartolini a prenderlo. Perché di quanti numeri è lì? Certo, lo giro qua. Prova a girarlo. Non te lo fu a parlo. No, tranquillo, che ti precisci adesso. Vai, Eugenio. Sì, tu sei a bestia, io sono da grammi, figurati. Allora. Dai, cazzo, falla andare. Poi mi è successa una cosa, Massimiliano. È arrivato il connettore di un telefono, no? Di un Huawei, no? Completo. E cosa è successo? Gli ho piazzato. Però prima di chiudere del tutto ho fatto una prova, io ho ricevuto le prove, no? Se carica, e ho fatto la chiamata, beh non si sentiva il microfono, infatti al tipo gli ho mandato un'email, praticamente ci sono 14 numeri. Appunto, e vai tu e te, caro. Ehi, ciao Roger, ci sentiamo dopo se coincide, va, vai tu. Ehi, ciao Roger, vai Massimiliano, fa la prova tu. Allora, qua devi entrare su Bartolini, ricerca spedizione, e ci metti quello A00 Bimbumba. Massimiliano, l'ho fatto, ma mi dice ho 17 caratteri, ho 15, non ce l'ha 14. Aspetta che guardo. E guarda un'occhiata. Cazzo che dal corriere che ho un mio amico, quello non ha riposo, ma che te la vedi? Aspetta, fammi controllare, vediamo se ci riesco. Sì, mi posso, oggi mi sono poco ripusato, io lo so se crollo, mamma mia, quello ti vai. Ebbene, un po'. Che a me mi dice uguale, Quello che mi dice Massimiliano, qui sono quelli polli che... Il codice deve essere lungo almeno 19 le cifre, boh. Adesso glielo giro, aspetta, al corriere. Se ma è strano, non lo dà. Cazzo, non so, questo che si mi ripone, se lo mandano a fare un culo. Aspetta un attimo, ne faccio un'altra. Ma come per rispondere? Aspetta un secondino. Sono tornato, Eugenio, ci sei ancora? Ah, Massimiliano, devi controllare nei rettili che fanno, eh. I rettili. Ah, nei rettili? Non me lo dà. Non lo so com'è. Capito Massimiliano, scusa che stavo mandando un messaggio, hai capito? No. Ho detto che devi guardare nei rettili. Cioè loro sono venuti a prendere il pacco a casa. Non c'entra niente con le spedizioni queste. E come si fa a entrare? Boh. Boh, si mi ha detto, andare nel sito dove fanno i rettili. Ah boh. Non te lo so accedere, l'unica cosa che tu lo sai da fare. Domani alla, chiami a Bartolini, qua a Sassari, le dai il numero di coso, di tracking, e io lo faccio cercare a loro. Vedendo il corriere che sono di abbruciati, molti volte si sono abbruciati che ci ho pagato un PayPal. Ah boh, vai Riccardi, riprendi. Ehi, stavo in ufficio Eugenio, che ha detto che stava tornando, adesso che sta abbandonato il furgone e sta tornando a casa. Eugenio è già sceso dalla macchina e adesso è dentro casa. Ok, va bene. Siete rimasti solo Luca e tu, e basta. Ma la camera qua lì, vai. Luca e io, sì, e Massimiliano, sì. Ah, ok, va bene. Lo senta Massimiliano? Sì. Ah, ok. Dove? Cosa? Dove? Ah, Massimiliano! Non sei tu Massimiliano. Ti stavo prendendo un po' a lingua, là. Perché ti dico la verità, anche mi confondo, non so perché, un po' così, ma tu e Claudio. Infatti ogni tanto ti confondi, là. Sì, tipo mi confondo per la voce, invece mi confondo il nome tra Natalino e Angelino, anche se sono in due QTH diversi. Ok, va. Va bene. Come ti volevo dire? Il microfono già te l'ha fatto? Sì, positivo, dove venire, me lo dà di nuovo il microfono, è cablato già Ottopoli per il Kenwood. Ma oggi viene? No, negativo, domani. Forse sarà c'è il turno di notte magari, boh. Ecco. Ciao Roberto, riprendi avanti. Chi è arrivato qua? Io, Riccardo e Luca che è andato a cambiare l'acqua all'acquario. Ah, così, a coso? Al verme. Muro sono rimasto, in 3-7 buco. No, non c'è neanche muro, hanno chiuso tutti, sono tutti andati chi a mangiare, chi a cambiare l'acqua, chi è arrivato dal lavoro adesso. Io, Riccardo e Luca ci siamo, dai. Eia, ok, no, io ho appena finito di mangiare. Penso deve essere rimasto qualcuno prima che vadano a mangiare, tanto non mi sa che non è venuto oggi la televisione. Ci manco un po' qua, digerisco e poi vediamo un pochettino. Vai Riccardo. Eia, ok, va bene. Ciao Robè, comunque. Sì, sono scappati tutti, ero un po' all'ascolto, visto che avevo finito di mangiare, mi sono mangiato una cosa al volo e poi stasera mi mangio qualcos'altro. Comunque sono tornato subito. Ok, mi raccomando, non perdere mai l'appetito, la radio è bella, però bisogna anche nutrirsi. Mangia tranquillo, non ti preoccupare, se non entri dopo 10 minuti e sarà mezz'ora, va bene lo stesso. Ok, Massimiliano, comunque complimenti per tutta l'imbarazzo che c'hai. Ehi, già va bene. belli i microfoni, c'è un sacco di microfoni belli, a parte le radio, diciamo, c'è un sacco di assortimento, ma c'è molta varietà di microfoni. Sì, per me è pure un retromobile ancora, già basta, ho voglia. Va bene, sì, no, le stavo dicendo a Riccardo se gli aveva già dato il microfono, il P5, là. Ma e poi alla fine, Riccardo, te l'ha dato nuovo, coso? Lì, bah, come ti chiama lì, adesso mi viene. Fusato. Te l'ha dato nuovo? No, negativo, non mi ha dato niente. Vabbè, ma non si sente neanche passato, vero? L'ho chiamato. Beh, quanto ci mette a arrivare da Cagliari? Massimo ci mette un giorno, due, toh. Ma esagerando due giorni, non di più. Come mi ha detto, con questo tempo ci vorrà un mesetto a portarlo, le spedizioni sono lente, come ho detto ci vorrà un mesetto, un mese e mezzo per arrivare. Ma con i cammelli vanno a piedi? Ascolta, un consiglio, mi dica. Allora, tu domani ti cerchi, anche dopo ti cerchi su internet, il numero di Fusaro di Cagliari e chiami tu direttamente, le dici che la situazione è che tu hai dato un microfono e comprato a Sassari, e a vedere un po' come quando lo spediscono qua a Sassari. Ma se no si è fatto andare il sud, visto che il microfono adesso ce l'ha già. Ma se no non sai cosa fare, tu vai a Fusaro e dici: ascolta, io questo microfono un mese non voglio aspettare, devi darmi i soldi, ma se no ti prendi il materiale che ti può servire, capito? Ho capito, sì. Domani siamo a Cagliari a vedere se hanno novità, comunque. Perché spero di che l'abbia spedito, che faccia in fretta, perché mi ha fatto pagare 68, mi ha fatto 8 euro di sconto per tutta quella roba. Sì, ho capito, però allora ti spiego, da Continente, no, quando tu compri una radio ci mette 3 giorni lavorativi a arrivare qua in Sardegna, ok? Se tu compri verso il sud Italia oppure verso la Sicilia ci mette 4 giorni lavorativi, cioè un giorno in più sempre per la Sardegna. Ma se tu compri da Cagliari ci vuole un giorno, cioè tu compri oggi, spedisci oggi e l'indomani ti arriva. Esagerando ti arriva il dopodomani mattina, ma esagerando, capito? Qua in Sardegna. Il problema è che quella lì non gli ha detto niente, secondo me, a quello di Cagliari. La dico io la storia, Massimo. Allora, Cagliari non gli ha detto niente perché tu ordini la mattina, il Corriere viaggiano due volte al giorno, c'è la mattina che la sera. Se ordini entro mezzogiorno, la sera alle 4 ce l'hai tu il pezzo. Se ordini la mattina presto, a mezzogiorno ce l'hai a Sassari, perché stanno sempre viaggiando. Lei secondo me sta aspettando di fare un ordine in Continente, perché a Cagliari magari non c'ha il guadagno che deve avere, fa l'ordine per dire ogni 15 giorni e cose del genere, ci mette in mezzo altri ordini e poi ci mette quello di Riccardino. Sì, però non è così che funziona, perché allora se fossi stato io il padrone del microfono, io domani mattina sei andato e ho detto: beh, io domani voglio il microfono o entro venerdì voglio il microfono, se no tu mi restituisci i soldi, capito? O se no mi compro un materiale, altro tipo di materiale. A prima volta si sta un mese e mezzo con il microfono, ma fuori il gabuji. Sì, infatti è una presa per i fondelli, dai. Diciamo, meno male, se riusciti un po' a metterlo in condizione. Comunque il microfono te l'ha fatto Riccardi, passato stamattina a Fabrizio in officina, gli ho dato quegli oggetti che mi ha portato tuo babbo, però stai attento Riccardo, ho notato c'è un po' di ossidazione, conservali, non lasciarli all'umidità quelle cose lì, perché si rovinano gli apparati. Ho visto quei due, come si chiama, aiutami, Rosmet, sono tutti e due ossidati dietro, non forzarli quando li entri, perché poi quando entri il PL e gioca non fa contatto bene, a seconda di come muovi il cavo non c'è continuità e bruci l'apparato, soprattutto quando stiamo parlando di cose importanti, non dei piccoli baracchini da 50 euro. No, ma io infatti le cose le sento bene, il problema è che l'ho comprato in stock con il microfono e tutta l'altra roba, e quindi era già usato, non l'ho ossidato io così. Ah, ok, come non detto, no, pensavo che ci fosse umidità dentro con l'ambiente dove stai tu. Ma in quel garage dove stai tu, che mi hai mandato la foto, Ricca, ma la notte lo chiudi o rimane sempre all'aperto così? All'aperto, però praticamente tutte le sere rimbocco gli apparati, gli do la buonanotte e il bacino, e se posso un giorno gli canto anche la ninna nanna. Non è che sia al massimo, non è che sia al massimo tenerli così, anche li puoi coprire come 1000 coperte, però non è che sia al massimo. essere lì all'aperto così. Riccardi, una cosa, per esperienza, se tu li copri, soprattutto se metti una copertina o qualcosa del genere, si inumidisce ed è ancora peggio che lasciarli scoperti, perché quando sono scoperti c'è un ricambio di aria. Quando tu ci butti sopra una copertina o qualcosa, la notte scende l'umidità ed è ancora peggio. Ma comunque qua dentro non c'è umidità. Se mi stai dicendo che è tutto aperto? È aperto, però è un po' più chiuso. Praticamente c'è la linea per la macchina e poi c'è è come una stanzetta qui dentro il garage ed è come coibentata. Io adesso tipo se vado fuori c'è freschetto fuori dal garage, invece adesso sono a maniche corte e c'è anche caldo. Guarda, domani forse se riesco a liberarmi, tanto deve salire Fabrizio, mi avvicino così vediamo un pochettino come date una mano per sistemare meglio la situazione. Sì, ok, così anche mi studio con il metro dentro casa le misure per tutti i banconi per farlo bello, metterlo dentro, che forse è meglio che lì, o è anche più caldo dentro casa. Assolutamente, poi ti puoi lasciare una stazioncina, ci metti un baracchinetto, una cosa di lì, come se seconda stazione, l'emergenza, o quando per dire non vuoi disturbare nessuno in casa, vuoi tenere fare per i tuoi fatti, tranquillo, ti lasci anche un paio di baracchini, ti porti un'altra linea di lì, di cavi, ti fai un commutatore, non so, vedi tu cosa fare, e c'è sempre due, meglio sempre averne due di scorta, così visto che c'è la possibilità di farlo. Però gli apparati vanno messi in posti dove non ci sia umidità. Le polvere purtroppo gira, ci puoi coprire con qualcosa, ma se c'è umidità mi rovini il migliore apparato, il peggiore, basta che c'entra umidità dentro, ci sono tanti componenti tipo i potenziometri, gli slide, sono delle parti in movimento, come entra umidità rovini tutto. Ok, cosa volevo dire di altro? Vai tu Massimo. No, io gli ho consigliato, di farsi un angolino nella camera sua, capito? Anche se c'ha 40 metri di cavo non succede niente, capito? Si prende un cavo buono e si porta, magari si fa un angolino, una scrivania, una cosa, e se li mette dentro casa. E così d'inverno sta il caldo dentro casa, l'estate sta il fresco. E come hai detto tu, e fuori gli ho detto, ti lascio un baracchinetto, quando vuoi stare fuori ti accomodi lì e te ne stai nel garage. Però adesso sarebbe stato bello, magari vedi in camera tua, magari con la tua scrivania, la tua radio, il tuo microfono, e modulare da dentro casa. Così all'aperto non è che sia l'ideale. Lo so, infatti lo sto organizzando, perché è molto meglio stare dentro, anche se è più comodo. Sono vicino al letto, posso stare fino a tardi, non mi devo mettere il divano in garage per accamparmi qui. Ma poi anche qualche animale può entrare la notte, capito? Qualche topolino e cose del genere. Non lo so, perché non ho mai cercato, sono sempre qui a caccia di propagazione, quindi non ho mai visto niente, però potrebbe essere che un giorno entra un animale, un gatto, fa gli apparati, ci salta, li può rovinare, quindi è meglio dentro. Poi i gatti dove si trovano fanno pipì, mi stai attento, fate l'igiene. Fare qualunque cosa, anche animali selvatici, io non lo so se ci sono, lì se circolano, però adesso con i tempi che corrono è pieno di cinghiali e cose del genere, se ne entra in casa, cerca di stare un po' attento, soprattutto la notte se si è addormentato, se si è coricato, ormai tu vivi in campagna, non sei in abitazione che sei dentro chiuso e non c'entra niente. Ok, e poi quando ti fai una piccola stazioncina, fate una cosa funzionale, ti metti gli apparati che utilizzi, quanti ne usi, 2, 3, tanto sono quelli non più di così, ti metti i microfoni a portata di mano, tutto con l'alimentatore in un angolo distante che non disturbi niente, è inutile poi mettere imbarrati, se devi fare esposizione te li metti dall'altra parte della scrivania, in un posto che non ti dia fastidio, dobbiamo avere tutto a portata di mano, in modo se devi prendere appunti, un posto per scrivere, eccetera. Così sono le stazioni, quelle diciamo di un certo livello. Ok, vai Massimo. Sì, positivo, ma io l'avevo già detto anche l'altro giorno io. Piano piano già si organizzerà, dai. Vediamo un po' Luca, là. Io ho fatto un paio di passaggi e poi scendo giù a cenare. Luca, cambiata lei questa acqua di oliva? Sì. Ho girato quel codice al corriere, manco lui lo sa. Altro domani si informa. Strano. Strano, strano. Va bene, dai, signor, io vi lascio, scendo giù e vediamo un po' se c'è qualcosa da sgranocchiare, dai, al limite se ci siete riprendo dopo, se no vi tenetevi salutati, dai, ok? Vai, Roberto. Sì, ciao, ma signora, buona carica, dai, io rimango un pochettino, dai, se entra pure qualcuno ci facciamo qualche chiacchierattina, dai, buon tutto, buona carica, se coincide dopo, vai Riccardo che poi andrà per Luca. Ok, saluto a Massimiliano e va bene, ci sentiamo alle prossime, cambio per Luca. Sì, a Massimiliano, andare, a dopo, domani, dai, ciao, buona sera a tutti. Roberto. Dimmi, Ricca. Comunque lo sai io cosa voglio fare, praticamente mi voglio prendere invece, qua mi lascio una Blizzard, e un'altra Blizzard me la metto lì, e poi mi organizzo, devo prendere tutti gli scaffali da Bricomen e così deve venire una cosa bella. Dai, aiuto io, non ti preoccupare, molto semplicemente senza spendere troppi soldi, tu devi avere le idee chiare cosa devi fare, solo lì, cosa c'è gli apparati, quanti ne devi mettere, come li devi mettere, hai visto come la mia, tutto fatto a ripiani, è abbastanza ordinata, pulita, un bel piano di lavoro, chiamiamolo, dove metti tutto, mi l'ho fatto vedere anche a Luca le foto, le hai viste Luca? Sì, sì. Una cosa così senza fare niente di fantascientifico, anche se non è il mio ideale di stazione, perché ti ho mandato una foto, non so se l'hai vista, quella che ti ho mandato, Riccardi, io voglio fare una cosa del genere. Sì, che l'ho vista, è molto bella, è bella secondo me. Comunque ho già le idee chiare, mi metto gli apparati, soprattutto in stazione base, lì, stazione base, e poi mi porto due baracchini entro, quelli che vanno meglio, e gli altri li lascio qui che li uso, come avete detto voi, quando non devo disturbare, oppure tipo la sera che no, per fare un esempio non ho le cuffie, adesso a portata di mano vado in garage. Poi ti organizzi anche qualcosa di meglio, e diciamo ci puoi mettere anche un registratore, se per dire c'è la possibilità di registrare qualche collegamento, qualcosa, ci sono tante possibilità di fare, hai visto cosa ho fatto io, ci sono modi di registrare anche un DX, se qualcuno ti chiede un controllo, quando c'è una cosa ben fatta, carina e ordinata, le cose vengono anche meglio, è inutile avere tanta roba una sopra l'altra, un baracchino sopra l'altro, il disordine, io forse sono abituato a avere tutto ordinato, di tutte le cose che faccio, non solo qua in radio, ma anche di altri generi di cose, tutto ordinato, funzionale, in modo che tu vai, prendi e parti, non è che devi prendere e spostare perché quello non va, quelle radio che tu hai visto e che ha visto anche Luca, sono tutte collegate, funzionano tutte, dietro se vedi cosa c'è dietro quel mobile, quello che ho fatto io, ci sono decine e decine di cavi, ci sono i commutatori, tante cose, funzionano tutte le radio, basta attaccare il microfono e accendere. Sì, anche a me non mi piace vedere molto disordinato, comunque che c'è tutto uno sopra l'altro, non li posso vedere gli apparati uno sopra l'altro, meglio li divido, li metto da un'altra parte, meglio che tutti accatastati. Sì, ma poi io, se tu hai notato, magari un occhio più critico se ne accorge, c'è una sezione dedicata all'ascolto, una sezione dedicata alla trasmissione, ci sono tanti ricevitori per tanti tipi di bande, e poi c'è una stazione dove ci sono i baracchini, le stazioni base e i baracchini, diciamo, e di lì e ti sposto con la sedia e mi sposto di un metro e vado da quella parte lì, però c'ho tutto a portata di mano io, quelli che utilizzo più frequentemente, tipo questo, ce l'ho proprio frontale, al primo piano della cosa, a fianco al ricevitore della ICOM, c'ho tutto a portata di mano, poi sopra ci sono altri tipi di apparati, ci sono gli analizzatori sopra, eccetera. Adesso mi devo cambiare la batteria al misuratore di campo, ieri l'ho acceso e purtroppo la batteria è andata, bisogna mettere le batterie nuove. Ho capito, sì, comunque io ce l'ho già le idee chiare, se mi capisco come te lo descrivo, che tipo volevo mettere oppure tipo due scrivanie, una davanti all'altra e una sedia di quelle che gira, così da una parte di una scrivania, una scrivania mi metto la roba tecnica, computer, se devo scrivere DX, e poi mi giro con la sedia e lì ci sono tutte le radio. Poi se c'è una libreria piccolina, perché io a fianco alla stazione c'è un'altra libreria dove ci sono tutti gli argomenti di cose elettroniche, eccetera, qualche rivista, se c'hai dei vocabolari, per dire, molte volte ti interessa capire cosa ha detto, se devi fare un DX, devi avere, ti prendi quei piccoli vocabolari piccolini, quelli tascabili, e c'è tutto, e soprattutto poi c'è un cassettone grande dove c'ho un po' di di attrezzatura per fare qualche piccolo lavoretto, poi dei manuali, un altro della scrivania, poi ci sono i manuali d'uso di tutti gli apparati che c'ho, almeno di quasi tutti, poi c'è un reparto dove ci sono delle riviste, delle cose, delle documentazioni tecniche per fare certi tipi di cose, e poi altre cose, diciamo, c'è un po' di tutto, però vuole tutto ordinato, che tu apri il cassetto, voglio vedere l'antenna che ho installato, le caratteristiche, tiri, cioè tutti i manuali delle antenne o di collegamento di microfoni, di tutto manutenzione, e ti faccio il cassetto dedicato a quello. Poi c'è il coso dove ci sono tutte le frequenze, il libro dove ci sono tutti, e te ne metti un altro. Tutto funzionale, e in modo che tu quando devi lavorare, che piano piano, non dico che un lavoro è una passione, però può diventare un lavoro nel senso quando si è organizzato bene, cioè tutto a portata di mano, e vedi un po'. Poi se c'è qualche appunto di qualcosa, di qualche collegamento, ti danno qualche informazione di un collegamento per dire guarda quel microfono si può fare con la modifica, prendi un block note, tu scrivi sempre e te li metti da parte.